E mentre DJ Vadim con la sua Black is the Night ci accompagna come sottofondo, andiamo ad aprire le prime pagine, cominciando da così, noi come al solito la selezione la facciamo attraverso il pacco che ci fa l'edicolante. E dunque oggi va a toccare a Repubblica l'apertura di questa rassegna stampa. Non siamo il governo dei poteri forti. Mette le mani avanti Monti attraverso questa dichiarazione. Monti al Senato, sacrifici equi, torna l'ICI, taglia le pensioni di anzianità, Berlusconi dura finché vogliamo noi. Il Presidente del Consiglio, uniti o falliremo, Palazzo Madama vota la fiducia. Con 281 sì, cala lo spread, borse ancora in altalena, cresce l'allarme per la Francia e Madrid. E gli articoli di oggi, Repubblica è un giornale che sta sostenendo il governo Monti, c'è l'analisi di Curzio Maltese, la normalità della politica, in meno di un'ora Mario Monti ha chiuso per sempre una stagione lunga 17 anni, la seconda Repubblica morta e sepolta fra gli applausi timidi dei congiunti con un discorso che ha illustrato agli italiani come rispetto al teatrino televisivo di quasi un ventennio la politica sia un'altra cosa, questa. Eh sì, in effetti si chiude la Seconda Repubblica, sembra quasi di tornare vedendo alcuni volti alla Prima Repubblica, ma questo è un paese abbastanza flessibile che si passa da un periodo all'altro con una semplicità disarmante. Poi Carmelo Lo Papa, il retroscena, Silvio dai 100 giorni, elezioni a giugno, almeno questo sarebbe, secondo l'articolista di Repubblica, quello che ci spetta prossimamente, o la strategia quantomeno di Berlusconi. Nel frattempo taglio centrale, gli studenti in piazza, fuori i banchieri, contestato il premier, scontri con la polizia a Milano, Torino e Palermo. Più che scontri con la polizia, c'è stata qualche carica della polizia che è sempre un po' differente. Noi lo diciamo sempre che se uno ti dà uno schiaffo in faccia non è uno scontro, bensì è uno che te sta a menare. Di spalla troviamo un paio di articoli che arrivano direttamente per l'inserto R2, Grecia, se l'Europa espelle Platone, poi Spagna, l'autunno del grande cambio, c'è Concilia De Gregorio orientata dentro Repubblica che ora si trova a Madrid e credo che ci vada un po' a fare il prospetto di quelle che saranno le elezioni che si terranno in questo weekend in Spagna. Chiudiamo con notizie che arrivano da Roma, il racket alla salto nel cuore di Roma, i negozianti sempre più nel mirino dei boss, 2000 euro al mese il pizzo della tranquillità, l'inchiesta di Repubblica, la gaffe del neo ministro Clini che ieri se ne è uscito così a buffo di questo, riguardo questi personaggi, ripensare al nucleare. Clini forse si è perso qualche passaggio, visto che c'è stato un referendum qualche mese fa che ribadiva il no convinto a qualsiasi cosa riguarda, appunto, che possa far rientrare il nucleare, tanto da far desistere anche Berlusconi e soci, ma Clini la butta un po' in caciara. E chiudiamo con anche Obama condanna i baci spot di Benetton, non all'uso dell'immagine per fini commerciali. Parliamo del bacio tra l'imam, se non sbaglio, e il Papa Ratzinger. E allora niente, allora nel frattempo sì, come al solito noi improvvisiamo, siamo così un po', ci sei, non ci sei, ci fai. Come non chiesto un po' di tempo fa, ma fate apposta, no, non famo apposta, è proprio, è tutta una natura. Vabbè, buongiorno anche da me, buongiorno a te Fabrizio, Corriere della Sera di fronte a me, è interessante vedere queste prime pagine nella nostra prima settimana di libertà, no? Perché a giudicare da quello che c'è stato, libertà o cappa del mondo? Io non ho capito che si festeggiava. Abbiamo vinto la libertà, vabbè. Pensioni, dice il lavoro, il piano di Monti, questo è il titolo didascalico del Corsera, no, da 25 leghisti, è già, perché i 25 leghisti la compagine leghista in Parlamento è salita sulle barricate. Una settimana fa stavano al governo e mo stanno sulle barricate. È tutto possibile. Non è l'esecutivo dei poteri forti, questo è quello che dice Monti. Berlusconi, democrazia sospesa, consenso, non a scatola chiusa. Da ricordare che Berlusconi ieri l'altro aveva benedetto Monti dicendo che è l'espressione anche del PDL fino a prova contraria. Poi una serie di articoli di fondo e di commento. Il vero e proprio articolo di fondo è firmato da Dario Di Vico, I passi necessari. Così ha intuito, credo che il titolo, anzi sono sicuro che il titolo è riferito alla medicina Monti, quindi ai diversi provvedimenti che il neogoverno si appresta a fare, che riguardano, l'abbiamo visto appunto dal titolo, tra le varie cose, le pensioni, l'ICI e il lavoro. Detta così, il lavoro sembra che debba essere creato, in realtà si tratta di riformare il mondo del lavoro e renderlo, il mercato del lavoro più che altro, e renderlo tendenzialmente ancora più flessibile. Poi gli stalli olio della casta, vuol dire Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo firmano un articolo per uno, l'aula dei rivali spinti a sopportarsi, questo il titolo dell'articolo firmato Stella. E poi c'è quello di Rizzo che ha il seguente titolo, è un appello più che altro al nuovo governo, adesso siate trasparenti e pubblicate i redditi. Poi dal taglio centrale abbiamo economia e politica estera insieme. Si parla di economia, titoli europei sotto attacco, Merkel e Sarkozy si consultano con l'Italia, lo spread francese tocca i 200 punti, quello spagnolo i 500, quindi sotto a chi tocca sembra essere il motto dei mercati mondiali, che appunto dopo l'attacco, chiamiamolo così, ai titoli di Stato italiani, che fino a ieri continuavano ad essere comprati da BCE per dargli una parvenza di stabilità, adesso evidentemente attaccano anche i titoli di Stato francesi e spagnoli. Poi, dicevo, dal taglio centrale si parla di Stati Uniti, Obama sfida la Cina nel Pacifico, sfida americana alla Cina, gli Stati Uniti sono una potenza del Pacifico e sono qui per restare. Il presidente Obama in visita in Australia conferma che i militari americani espanderanno il loro ruolo nella regione. Beh, complimentoni. Per il resto direi nulla, si parla di Baggio e Bozzo, un giallo il suo testamento, ma io ho tirato il sospiro di sollievo al fatto che non c'è più, per cui preoccuparmi del testamento. Dovresti metterti in testa che anche questi sono problemi. Vado io, col Corsera. Chiuso il Corsera, andiamo col manifesto. Veni, vidi, ici. Questo è la prima pagina. Poi vi sveleremo anche un segreto su questa prima pagina, visto che c'è un altro quotidiano che oggi titola uguale e non direi abbastanza diverso dal manifesto. Ti faccio un quiz: qual è il quotidiano che viene acquistato fondamentalmente da uomini maschi dai 60 anni in su? Libero? No, era il quotidiano romano. Il tempo. Il giornale di vecchietti, storicamente. Interventi su pensioni e ICI, recita l'occhiello. Monti presenta in Senato il suo programma, poi rassicura, non sono il servitore di poteri forti. Il suo ministro dell'ambiente se ne infisca del referendum e già parla di nucleare. In serata arriva la prima fiducia, Berlusconi abbaia, stacco la spina quando voglio, ma il PDL non morde e vota. Sviluppo e risorse, Galapagos a pagina 4 ci spiegherà lo slalom del Premier tra tagli e tasse. Il lavoro, se dietro c'è Ichino, occhio all'articolo 18, articolo di Antonio Sciotto. E poi Roberto Ciccarelli, riforma Gentili e Gelmini, la continuità di Super Mario. Dunque, la discontinuità che tutti pensano che ci sia tra i due precedenti governi comincia già a mostrare qualche crepa. Sempre dalla prima del manifesto poi troviamo altri due articoli della serie Baciare il Rospo. Questo è l'interrogativo che sta ponendo il manifesto in questi giorni ai suoi lettori, ossia se accontentarsi o no di quello che ci stanno proponendo. Alfio Mastro Paolo, la doppia antipolitica, e poi una sfida per la sinistra, Tonino Perna. Queste sono le due firme di oggi riguardo appunto questo dibattito all'interno del manifesto. Sempre dalla prima, l'ultimo, i due occhielli, uno dedicato alla alle città ieri invase dai cortei nella giornata della protesta mondiale. Un fiume colorato da Milano a Palermo per l'istruzione pubblica e contro i diktat dei mercati e il benvenuto degli studenti al governo, direttori e banchieri con cariche e tensione. Poi occupi Wall Street, la borsa di Wall Street sotto assedio, scontri e decine di arresti. Day of Action avvia la marcia degli indignati da Zuccotti Park, subito fermata dalla polizia, bloccato nel pomeriggio il metro, 73 arresti in piazza anche in Europa, ad Atene e a Praga. Questa era la prima pagina del Manifesto. Andiamo? Non ti senti? No. Va acceso, sì, no, dammi tempo, oggi ho bisogno di più tempo del solito. Dicevo, andiamo al Fatto Quotidiano, che praticamente è un'edizione dal domenica in poi, è praticamente entrato nell'era seconda della propria epoca, perché il Fatto Quotidiano, in assenza di Berlusconi al governo, è abbastanza inconsueto. Sì, va a morire uno dei suoi cardini. Io me li immagino tutti con lo sguardo vuoto, gente che piange, mi manca. Però infatti ora sarebbe curioso capire, anzi andremo a scoprire nelle prossime settimane come si ricolloca il Fatto venendo a mancare, no, quello che era un po' il suo punto di riferimento nel bene o nel male. E guarda, già qualcosa si capisce. Questo è il titolo: pensioni, lavoro, ICI, la mara medicina di Monti, al Senato maggioranza bulgara, 281 sia la fiducia, solo la Lega dice no, 25 voti, il Premier, l'Europa siamo noi. E lo dice il Fatto Pensiero, viene spiegato ancora meglio dall'articolo di Marco Onato: fine delle illusioni, un programma di governo serio che merita attenzione e apprezzamento e che sarà tutt'altro facile che facile da realizzare. Già le prime tre righe qualcosa ci dicono. C'è poi l'articolo di Marco Travaglio, non lo leggiamo neanche oggi, Melinda e Melinda il titolo, dal taglio centrale un po' di tempo il Fatto Quotidiano lo dedica per sbeffeggiare gli antichi nemici. La festa è finita, questo è il titolo che accompagna una foto di uno sconsolato Gianni Letta ieri nella tribuna del Senato mentre ascolta il discorso di Monti, perfettamente solo. Va detto che la foto è bizzarra, si capisce che sta di fronte a un balcone, guarda nel vuoto, chissà se poi è zompato. Guardando online non si è buttato, magari hanno censurata, che ne so, troppo splatter, non si è buttato. Poi dal taglio basso del Fatto Quotidiano una citazione di qualcosa evidentemente uscito ieri nel programma di Santoro, servizio pubblico: Schifani al mio matrimonio poi mi ha voltato le spalle. Questa è una dichiarazione di Nino Mandalà, condannato per mafia. Il boss di Villa Abate racconta dei suoi rapporti con il presidente del Senato e con Enrico La Loggia: che bastardi, eravamo amici. Sempre parlando di Santoro, di cui il Fatto Quotidiano è ovviamente un referente diretto a livello cartaceo, Santoro ha incendiato un altro trasmettitore TV. È di ieri pomeriggio la notizia che dopo quelli che erano stati bruciati, mi sembra, in Liguria, ieri hanno... Lombardia la settimana scorsa. No, in Lombardia, regione, ieri invece in Trentino, se non sbaglio, hanno bruciato altri trasmettitori che avrebbero tra le varie trasmissioni, avrebbero dovuto ritrasmettere anche il segnale della trasmissione di Santoro. Con questa notizia è tutto dal Fatto. È tutto, noi diamo un attimo una scorsa ad altre prime pagine guardando online, poi chiuderemo con il Messaggero che come al solito non così acquistiamo, prendiamo più che altro per la rassegna stampa. La stampa, di Torino: Monti, interventi su ICI e pensioni, ecco il mio piano, meno tasse sul lavoro e imprese, non siamo il governo dei poteri forti. E La Stampa sostiene Monti attraverso anche un editoriale dal titolo La ricetta che serve al paese, un po' come fa anche il Corsera e come fa Repubblica. Poi il taglio centrale è dedicato alle manifestazioni studentesche ieri in piazza contro banche e bocconi. Il Riformista, un giornale abbastanza inutile che però spesso detta anche la linea un po' a sinistra, e il governo ora c'è, Monti in cassa il primo sì del Senato, e poi sotto CGL, Vendola e anche la Lega nel PD si teme l'emorragia. Sempre dalle prime degli altri quotidiani, abbastanza scontato il titolo dell'Unità: tre Monti, basta con questi giochi di parole su Tremonti, su Monti, su Passera, tutta questa gente qua, basta. La prima era carina, la seconda pure, la terza basta. spieghiamo anche all'unità che tra l'altro arriva con qualche giorno di ritardo su un titolo del genere. Basta di ubriachi fino a ieri l'altro. Sì, probabilmente, Caruso, eh? Probabilmente sì, nel programma del governo di scontinuità su lotta all'evasione, ruolo del Parlamento, coesione sociale, ma restano nodi irrisolti e incertezze su precarietà, diritti del lavoro e patrimoniale. Ah beh, se ne sono accorti, ieri tra l'altro l'unità priva con la foto delle tre neoministre con scritto poteri forti, questo era il titolo abbastanza esaltante. Tra l'altro non scordarti che l'unità rappresenta più o meno direttamente il partito, al dire il Partito Democratico, che ci ha detto il suo segretario ha buttato giù Berlusconi, no? Sì. Per cui abbiamo scoperto questa cosa, quindi capisco che siano particolarmente guarda felici. C'è poi c'è il giornale di Sallusti, quell'uomo abbastanza, diciamo, Sallusti a questo particolare, sì, toccate ferro, scusate, toccate mamma ferro, mia. Poi lo ridico, non lo dico più il suo nome. Comunque, occhio ci entrano in casa. Hai chiuso bene casa te? Capirai. Hai chiuso le finestre così. Si soffi te. Poi, occhio ci entrano in casa, arrivano nuove tasse, Monti annuncia una super ICI e taglia le pensioni, dal Senato la prima fiducia. E poi Berlusconi, democrazia sospesa. Questo avrebbe detto di Berlusconi, frase o concetto che ripete, che ci fa presente soltanto il giornale. Poi nucleare, la sinistra è già spaccata. Abbiamo mo il Libero, che invece il programma di Monti per ora solo tasse, e in fondo Monti sta facendo quello che poi qualche giorno fa gli chiedevano questi stessi quotidiani. E poi abbiamo la Padania, che è sempre folcloristico, se non fossero degli xenofobi che fanno danni attraverso le loro amministrazioni, attraverso la loro politica, la moltiplicazione delle tasse, questo gioco di parole a cui ancora non è arrivato nessuno. Moltiplicazione. Moltiplicazione, certo. Poi la sinistra picchia duro il prof, parlando delle manifestazioni di ieri studentesche. E chiudiamo. Il Secolo d'Italia, il giornale di AN, che titola foto di Berlusconi, questo governo lo teniamo in piedi noi. Sono rimasti soltanto gli ex AN a credere a questa cosa. E poi il Tempo, che titola appunto, come dicevo prima, Monti alla fiducia, vieni, vidi, ICI. Io penso che al manifesto stanno rosicando a bestia. Poi non è che te l'ha rubato il New York Times, ti ha rubato il Tempo, il giornale dei pensionati romani, poi fondamentalmente, perché chi lo compra più il Tempo? E poi lasciamo perdere le altre prime pagine, che arrivano comunque fondamentalmente dai quotidiani locali. Dunque possiamo chiudere con quello che è il quotidiano del centro, uno dei quotidiani del centro Italia più venduti. Sì, andiamo al Messaggero, ma proprio velocissimamente. Interventi su ICI e pensioni, questo è il titolo d'apertura. Poi un articolo di Oscar Giannino, pensa un po', la crisi drammatica dell'euro, la coppia Merkel-Sarkozy. E poi anche qui si fa riferimento al programma di Berlusconi. Berlusconi, il governo dura fino a quando lo vogliamo noi, la democrazia è sospesa, questo è quello che ha detto Berlusconi ieri. Qui anche si rammenziona dei cortei studenteschi di ieri, gli studenti nuovi in piazza, stranamente neutro il titolo del Messaggero, ma aspettavo anche qualcosa. Caos traffico, passerà all'interno della gara. No, vabbè, però ieri c'era pure lo sciopero, quindi l'avranno accollata allo sciopero dei mezzi. Per il resto, il Messaggero non c'ha proprio null'altro. Calcola che uno dei titoli riguarda il segno zodiacale del leone, pensa un po'. Vabbè, perché il Messaggero è lo stile del Messaggero, di fare un po' così, di buttarla un po' anche sul folklore. Noi con le prime pagine alle 8:20 abbiamo terminato, lasciamo spazio a un po' di musica, poi entreremo proprio nel cuore dei quotidiani, perché l'era si è aperta appunto l'era Monti, quella che porterà benessere e pace, amore un e po' prosperità e prosperità, soprattutto non austerità bensì prosperità. Comunque pensavo, se è vero quello che dice chi era Libero o il giornale, il giornale dentro casa, allora io voglio dire una cosa: la scopa sta dentro, sta nel cortiletto, io ce l'ho fuori la porta, dunque neanche date la botta. Il letto non vi preoccupate, non lo fate, che tanto devo lavare nel sole, anzi lavare bene nel sole, eh? Comunque, noi dedicato al governo Monti, oggi abbiamo la traccia di oggi, mi sono ricordato, ce lo siamo detti ieri sera, mi sono ricordato, questa è dedicata al governo Monti, è un super pezzone dei Clash e vi accompagnerà per i prossimi 4 minuti e mezzo. Sarà il nuovo anche per il prossimo anno e mezzo, direi che infatti potrebbe essere uno dei nuovi inni italiani. Sì. Rientriamo lentamente in diretta alle 8:25. Sai, mi è arrivato un messaggio dalla nostra comune amica, la nana del tufello, con scritto: ma oggi non fate rassegna stampa? No, oggi stiamo facendo il golf. Perché? E io ho risposto: stiamo in onda da mezz'ora, forse prima di mandare i messaggi accendi la radio. Può essere che quella che hai acceso è la caffettiera, non la radio. Sì, io rimango basito ormai. Caffettiera, caffè, radio, musica. Veramente sfioriamo ormai la follia, però vabbè, noi ormai facciamo finta che noi non stiamo in onda dalle 8. Vabbè, comportiamoci da servizio d'assistenza. No, non la facciamo oggi. Sì, non la facciamo. Te lo diciamo per radio, però. Te lo diciamo per radio, infatti. Vabbè. Senti, fammi fare un saluto all'ascoltatore che ha chiamato chiedendo una dedica musicale da fare ai valligiani, agli albanesi e non ricordo il pezzo, agli smozzicatori. Vedremo se riusciremo a mandare il pezzo musicale. No, c'era tutto un discorso, sembra una cosa strana, ma c'era tutto un discorso che io ho anche capito, pensa un po'. Sì, mi sono giocato l'unica comprensione di oggi, per il resto non capirò più nulla. Vabbè, dobbiamo leggere un po' di. Sì, andiamo a risultare insieme ad alcuni quotidiani con il governo Monti, o comunque quantomeno andiamo a vedere come viene letto dai diversi giornali quello che è stato ieri il discorso di Monti. Dal Manifesto, pagina 2, pagina 3, Mario Monti parla ai politici da tecnico, non supponente ma estraneo. Noi vi aiuteremo a recuperare la fiducia. Cominciamo con l'emergenza. Solo la Lega e l'opposizione, il Senato concede una fiducia bulgara al nuovo governo, il PDL non è contento e minaccia di staccare la spina. UDC e PD invece gioiscono, ma il programma è quello vecchio. Riforma Gelmini, federalismo fiscale, pareggio di bilancio in Costituzione, ecco la discontinuità. Scrive ironicamente il manifesto. Poi ci sono alcune delle dichiarazioni, quella grave oltre che ridicola di Corrado Clini, il neo ministro all'ambiente, che parla di ritorno al nucleare in maniera abbastanza maldestra. E andiamo a vedere tra l'altro alcuni degli articoli a pagina 4. Invece Antonio Sciotto, oggi il manifesto dedica, e lo segnalo, le prime 4 pagine un po' ai nuovi ministri, a quelli che saranno le politiche dei nuovi ministri. Articolo 18, dritto nel fornero, il discorso di Monti sembra riecheggiare il progetto Ichino, no della CGIL, PD diviso, scrive Sciotto. Affermazioni di tregua sulle pensioni, ma un programma più spinto sul lavoro. Il governo Monti potrebbe riuscire a scardinare l'articolo 18, non tanto nella forma hard proposta in extremis dall'ex ministro Sacconi, ma nella più soft e moderata versione Ichino. Ne sono una prova le parole pronunciate ieri nel discorso programmatico al Senato e l'attivismo improvviso di Pietro Ichino, che ieri ha avuto un breve colloquio con la nuova ministra del welfare Elsa Fornero, confermando successivamente ai giornalisti che il programma è quello. Negli scorsi anni, ha detto Monti, la normativa previdenziale è stata oggetto di ripetuti interventi che hanno reso a regime il sistema pensionistico italiano tra i più sostenibili in Europa e tra i più capaci di assorbire eventuali shock negativi. Già adesso l'età di pensionamento nel caso di vecchiaia, tenendo conto delle cosiddette finestre, è superiore a quella dei lavoratori tedeschi e francesi, ma il nostro sistema pensionistico rimane caratterizzato da ampie disparità di trattamento tra diverse generazioni e categorie di lavoratori, nonché da aree ingiustificate di privilegio. Quindi pare far intravedere Monti, i tagli si potrebbero concentrare sui privilegi. Vabbè, ammetto che a dare un'occhiata al Corriere della Sera, che come immaginerete teste le lodi della prima uscita pubblica in Senato del governo Monti. Governo di impegno nazionale, Monti, rigore, crescita e equità. Queste sono le parole d'ordine un po' vuote che abbiamo sentito ormai da domenica in poi. Dice Monti: non è l'esecutivo dei poteri forti, ma è servito le multinazionali. E qui cioè, rimaniamo un po' perché per lui le multinazionali sono Nike, Coca-Cola, Adidas, esatto. Vabbè, lui, così lui diceva c'ha le superga, ma che volete, sì, vabbè. Da Pischello c'è le backup. Comunque andiamo un attimo alle reazioni. Il Corsera ritiene necessario dirci cosa pensano del primo discorso di Monti, cosa ne pensano Raffaele Fitto, anche qui siamo nel girone del posso dire ciò che mi pare. Monti, dice Fitto, delinea un programma serio che credo possa dare risposta alle esigenze del paese. Ritrovo una linea di sostanziale continuità rispetto agli impegni assunti dal nostro governo. Qui il vero miracolo è che il giornalista ha raccolto la dichiarazione e non si sia addormentato a metà dichiarazione, perché è una cosa di una piattezza. E invece c'è pure la... la dichiarazione di Nichi Vendola, al quale qualcuno vorrebbe spiegare che non è rappresentanza parlamentare. Ne parlavamo un paio di giorni fa, no? Che Vendola ha tuonato, forse daremo l'appoggio a Monti, ma dobbiamo vedere prima il programma. Vendola, non c'hai parlamentari. Però sul manifesto Vendola dice che il futuro è vasto. Vasto si fa riferimento a Vasto. Va a Vasto? No, è Vasto, sì, in Abruzzo, dove quest'estate c'è stata, non so, questa tavola rotonda, la festa, che se non sbaglio, dell'IDV tra lui, Di Pietro e Bersani in programma. C'eri pure tu, no? Sì, c'ero anch'io, io ero il quarto. Vasto, ci stai pure ero il quarto, insieme a loro. Dunque, no, lui fa l'occhietto a quella che potrebbe essere una futura alleanza di governo, che però a quanto pare sembra volere soltanto lui. Sì, e sicuramente comunque a Vendola non piace questo governo. Sono deluso dal discorso di Monti. Festeggiamo la fine dello stile commerciale pornografico che ha segnato la stagione berlusconiana, però non festeggiamo la fine di una stagione politica. Vabbè, ma che ti aspettavi? Cioè, vabbè, non stento a crederci. Poi c'è un articolo tra il folcloristico e il costume su l'effetto, questo sì, un po' paradossale, di vedere la stessa gente che fino a una settimana fa sosteneva tipo Peones Berlusconi, che ieri è tornata sul luogo del delitto, quindi in Senato, chiaramente in un contesto abbastanza differente. Coi reduci in aula un secolo dopo, il professore porta a casa la droga sotto lo sguardo di moglie e figli, vabbè, questo sti cavoli. Gianni Letta solo in tribuna, guarda amaro, l'esecutivo poteva essere anche suo. Anche qui viene fatta vedere la foto che abbiamo, di cui parlavamo prima, e che campeggia sulla prima pagina del Fatto. Poi po' di contabilità rispetto ai voti incassati dal governo. Va detto che il Corsera, almeno per quello che mi par di vedere, no, in realtà c'è una bella scheda su quelli che sono i primi passi annunciati da Monti, li andremo a vedere a breve, ma non prima di parlare del grande programma di Casini, che dice: io mai più nei pollai televisivi. Adesso forse lo saprai, lunedì o martedì Monti ha fatto dire ai suoi ministri che non sarebbero una sorta di gentleman's agreement, per cui è l'austerità, ci sarà austerità televisiva. Ha fatto dichiarare che non andranno nei vari salotti televisivi. Va pure detto che però giusto per confermarlo, ieri invece in un salotto radiofonico il ministro, come si chiama? Che ne so, è quello che dicevamo prima del Clini è andato a una trasmissione di Radio 2, giusto per detto TV, no, ma radio. È andato perché la radio è austera, no? La radio ti fa tornare indietro di almeno un secolo. Poi smagrisce un botto. Sì, quando tutte le famiglie si raccoglievano intorno a questo strumento gigantesco. Vieni, c'è Clini che dice un sacco di gizie. No, è così, funziona così. È l'austerità di Casini, quindi si è buttato sulla stessa linea, dice: io mai più nei pollai televisivi. Io gli do 3 mesi. Sì, ma poi ci ha sguazzato per anni. Vabbè, veramente, che personaggio Casini. Posso dirti che Curzio Maltese, a pagina 3 di Repubblica di oggi, che ci racconta, no, la sta sua ancora visione, ancora in testa le festeggiamenti di sabato. Sì, infatti sta ancora riprendendo. È finito, spero almeno che sia finito il trenino che stavano facendo a Repubblica al grido di le. Credo, comunque, Curzio Maltese, Repubblica chiama Monti con lo stesso soprannome di Balotelli, perché Super Mario Balotelli, Super Mario Monti, l'addio alla Seconda Repubblica, questa è la vittoria della politica, appunto. E poi l'occhiello di Curzio Maltese, un esecutivo di marziani rispetto ai ministri precedenti. Dunque dovremmo aspettarci una sorta di Independence Day prossimamente contro questo esecutivo di marziani. Vado a leggervi qualche stralcio. Qualcuno doveva pur tenere alta la bandiera cialtrona della Seconda Repubblica, ma è consolante pensare che almeno nella valle di lacrime e sacrifici dietro l'angolo non dovremo più farci rappresentare nel mondo da comitive di cialtroni specialisti in inglese e anche in italiano maccheronico, ministre uscite dai calendari e macchiette da varietà e Doberman da rissa televisiva. E stavolta con serenità che si assiste ai comizi da bar all'uscita dall'aula del Senato, con i capannelli di leghisti in uniforme verde e berlusconesi disperati che ripetono le ultime parole d'ordine del capo: la sospensione della democrazia e la sconfitta della politica. Il senatore Beppe Pisano li guarda con un misto di preoccupazione e cristiana pietas. Che dire, io sono felice, lavoro da 2 anni a questo obiettivo, ma capisco che altri non lo siano. Vediamo cosa dirà Berlusconi, come appoggerà il governo Monti, ma non sottovalutiamo la forza delle cose. Questo è un po' il taglio dell'articolo di Curzio Maltese su Repubblica, che è anche un po' il taglio e la linea che ha preso Repubblica. Ricordiamoci che all'interno di questo esecutivo, cioè, ci sono anche persone che hanno fatto parte del gruppo, che hanno lavorato nel gruppo Espresso, di conseguenza il gruppo di proprietà del giornale La Repubblica. Dunque anche da queste cose si evince un po' la simpatia di Repubblica, la partigianeria. Sì, visto che Maltese parlava di uniformi leghiste, io non posso dimenticare che sarà da paura, come dice Maltese, questo nuovo governo comparato al precedente. Dopodiché a me fa un po' paura un ministro della difesa che ha la divisa, no? Ma però è la divisa austera, facci caso, perché funziona così. C'è questa mimetica un po' portata pure un po' sblusata. Hai visto la foto, tutti con gli occhi bassi? C'è uno addirittura che legge il giornale come di ministro. Io sto qua, ma do una mano, insomma. Non mi chiamate ministro. A chi la teoria è ricevuta? Vabbè, senti, sul pagina 6 del Corsera c'è la scheda di che cosa cambia per quanto riguarda ICI, pensioni e lavoro, dall'imposta sulla prima casa al sistema contributivo più esteso. Vediamo velocemente: il ritorno dell'ICI sarà progressiva, l'imposta comunale sulla prima casa, nonostante l'opposizione già dichiarata dalla CGIL, sarà reintrodotta e incorporata nella nuova IMU, l'imposta municipale unica, da anticipare probabilmente già al 2012, e sarà solo l'antipasto perché Monti vuole attuare la delega per la riforma fiscale in tempi brevissimi. Una riduzione delle imposte e dei contributi che gravano sul lavoro e l'attività produttiva, finanziata dall'aumento del prelievo sui consumi sulla proprietà. Un'altra soluzione, oltre all'ICI sulla prima casa, potrebbe essere la patrimoniale, ma, ce lo dice il Corsera, è difficilmente praticabile dal punto di vista politico. Silvio Berlusconi non è affatto d'accordo. È chiaro che se in termini di introiti da una settimana buona si affannano tutti a dire che non c'è grossa differenza, cioè l'ICI sulla prima casa darebbe un gettito pari a quello più o meno della patrimoniale, è chiaro che eticamente cambia proprio qualcosina tra patrimoniale e ICI. Io segnalo da Repubblica di oggi alcune pagine dedicate al governo Monti, ossia c'è tutto questo dossier verso le misure del governo. Si parla di fisco, si parla di pensione, si parla anche di lavoro. Arriva il contratto unico contro la precarietà e per i disoccupati il sussidio sarà un vero aiuto. La riforma riguarderà le nuove assunzioni, mentre non saranno toccate le regole per chi già lavora. Dunque, base di partenza la proposta del senatore del PD Pietro Ichino sulla flex security ispirata al modello danese. Senza tenere conto che comunque il modello danese si basa tutto su un sistema di stato di welfare che, diciamo, aggiungerei il termine leggermente diverso da quello italiano. C'è la foto della neo ministra Elsa Fornero, oltre ad essere titolare delle politiche sociali e del lavoro, anche la delega alle pari opportunità. L'obiettivo è far assumere tutti a tempo indeterminato, in caso di licenziamento scatterebbero indennità per 4 anni, verrà anche rafforzato il modello di contrattazione aziendale. Tutte cose che poi all'interno di questa radio approfondiremo in altri spazi. Comunque è curioso come viene raccolto, come la proposta Ichino sia diventata in qualche modo, no, il modo e lo strumento per uscire dalla precarietà, quando la sensazione invece che la precarietà non fa altro che aumentarla. Guarda, io sono un po' sotto shock perché sul Corsera c'è una foto che mostra il neo ministro dei rapporti col Parlamento, che giusto per avere rapporti col Parlamento come dire, fraintende questo suo ruolo, quindi ha rapporti veramente con tutti, e ieri è stato accolto nell'aula del Senato e ne ha ricevuto le congratulazioni, sai da chi? Da Domenico Gramazio, senatore, che sta e che niente, che l'ha baciato, ha abbracciato il Corsera, ce la fa vedere. E devo dire che come si chiama questo Giarda, non è che rifiuti troppo. Tra l'altro ieri Giarda è stato uno dei due autori di gaff tecniche, così le chiamava il fatto, a me sembrava gaff e basta, dopo quella sul nucleare dell'altro suo collega, di cui non mentre in testa, già, si è già smentito comunque, non mentre il nome in testa. C'è invece Giarda che è arrivato in Senato con l'elicottero dei pompieri, dei vigili del fuoco, non dentro proprio, credo io. Sì, l'ho già parcheggiato. Spero che, spero che l'elicottero dei pompieri sia andato meglio del camion dei pompieri che ho visto stamane venendo qui a Ponte Casilino, che ha preso pieno due macchine e due pali della luce. Quando sono passato io c'erano solo le tracce, per radio ho sentito che alle 4:30 ha fatto un botto di quelli grossi grossi. Per fortuna non ci sono ferite, io penso che si sia svegliato tutto quel pezzo del sesto municipio. Lo sai che un altro fan Repubblica ci tiene a sottolineare che un altro fan di Mario Monti è Vasco Rossi. Vabbè, l'ho scritto su Facebook. Vai, tutti i passaggi direi fondamentali. Io faccio presente, prima di chiudere questo spazio sul governo Monti dai giornali di oggi, faccio presente due cose. La prima che questa mattina dalle 11:30 ci sarà un filo diretto proprio qui su Radio Onda Rossa per andare così a confrontarsi con tutte e tutti voi che ci ascoltate sul neo governo Monti. Dunque dalle ore 11:30 potrete intervenire allo 06 49 17 50. E poi l'altra cosa, se vi interessa, appunto, prosegue il dibattito sul manifesto nelle ultime pagine su Baciale il Rospo, ossia prendere Monti come un po' come la salvezza, no? Come un po' come il turarsi il naso di che alla Montanelli, se baciare o no il Rospo. Tonino Perna scrive: ora l'alternativa o finiamo a bocconi, come dicevo dalla prima. E poi Alfio Mastro Paolo: la sinistra vittima della doppia antipolitica, il populismo di Berlusconi è stato abbattuto dal tecnicismo dell'Europa e dei mercati. Nello scontro tra le due forze il vaso di goccio rischia di essere la sinistra se non comincia a ragionare seriamente all'azione del nuovo governo, scrive Alfio Mastro Paolo. Io vi rimando alla pagina 14 in poi del manifesto, ci sono alcune lettere proprio dei quotidiani e ci sono anche alcuni interventi. È stato rispolverato pure un vecchio editoriale di Luigi Pintor del 1995. Io, come immaginate, ho abbastanza meno anche da un punto di vista economico sul Corsera, più che altro, più che meno è tutto materiale concorde con i programmi del governo Monti. Tra le varie cose, a pagina 12 vediamo, come dire, un come doveva si dimostrare del Corsera, che ci spiega come grazie all'effetto fiducia del governo Monti i tassi sui BTP abbiano frenato, la borsa è scesa, ma ci spiega il Corsera che fondamentalmente è scesa per l'attacco degli speculatori, questi fantomatici speculatori che poi probabilmente comprano pure il Corsera, non so come dire, non è che vivono su Marte, e che hanno attaccato i titoli di Stato francesi e spagnoli. Poi girando la pagina 13 e andando a pagina 14 e 15 si parla del primo programma non in materia economica di un membro del governo Monti, vale a dire il ministro Clini. Nucleare, apertura di Clini, poi frena, caso già chiuso, quindi ha fatto un contraddittorio con se stesso praticamente. Sì. Prima lite e primo caso di bipolarità nel governo Monti, il ministro tecnologia rilevante, ma c'è stato il referendum. Vabbè. Guarda, io chiudo, veramente chiudo, segnalando anche a pagina 37 di Repubblica i due editoriali di oggi. Uno affirma Gad Lerner, appunto, segnali da ascoltare, il segnale sarebbe appunto sarebbero leggendo al volo l'articolo di Lerner, alcune delle proteste, ma non soltanto questo, ma un po' come è il panorama italiano in questo momento. E poi c'è invece Natalia Aspesi o Aspesi, non ho mai capito se si dice, credo Aspesi. E poi si dice Natalia o Natalia? pure questo. Non è un nome, è un cubo di rubriche. Sì, infatti è un... è qualcosa di veramente difficile da svelare, però ci racconta la sua rivincita delle signore. Lei dunque esulta per questo cambio, per questa discontinuità, per queste neo tre ministre che in effetti sono state messe anche in tre posti chiave del neo governo Monti. Comunque l'esultanza, non so, a noi non ci viene spontanea assolutamente. Torniamo dalle, sempre rimanendo agli interni, è sempre qualcosa che riguarda il governo Monti, visto che ieri giustamente si è tornati in piazza, c'è stato lo sciopero da parte dei sindacati di base e parallelamente le manifestazioni delle studentesse e degli studenti che sono confluite e hanno dato via appunto a cortei unici un po' in tutta Italia. Come al solito l'impronta di alcuni quotidiani è sul racconto di scontri e cariche. Sfidiamo il governo dei banchieri, leggo da Repubblica, incidenti da Milano a Palermo, Profumo aperti al dialogo. Profumo, ricordiamoci, il neo ministro dell'istruzione. A Bologna la cancelliera è raffigurata come la regina di picche del Viminale. E Repubblica ci segnala che ieri è arrivata la prima condanna, ieri appunto a 3 anni e 4 mesi, che sono tantissimi. Repubblica lo chiama, scrive appunto, violenza di ottobre a Roma, condannato il primo black bloc, perché bisogna continuare a dargli la patente. La dichiarazione dell'avvocato che sottoscriviamo, che dice appunto che una decisione molto dura sulla sentenza certamente ha influito la pressione mediatica. Quel ragazzo non è un black bloc, come se appunto esistesse l'organizzazione Black Bloc. Le foto che lo ritraggono non sono relative ai fatti contestati. Giovanni ha solo raccolto e rimandato indietro un fumogeno lanciato dalla polizia. Non era vestito di nero, ma copriva il naso e la parte inferiore del volto con una bandiera della Palestina. Ci ricorda, però è così, se te bardi ad un prete sei vestito di giallo, sei un Black Bloc. Funziona in questa maniera. E tra l'altro lì Repubblica scomoda Corrado Zunino a pagina 21. Ora Cattolica e Bocconi diventano i nuovi nemici, simbolo della solita elite. Uova contro i due atenei, i baroni, nostri avversari. Vabbè, andiamo al Corsera. Studenti contro le banche, cariche a Milano e Torino, cortei in 70 città. Il ministro Profumo, dialogo ma niente violenza. Vabbè, questa è una formuletta trita e ritrita. Uova sul Senato, non ci fidiamo del governo. La Bocconi presidiata, 3.000 studenti in marcia sulla Bocconi, bloccati dagli agenti a 600 metri dall'università. Vengono poi mostrate foto di quelli che nei titoli vengono chiamati scontri. Dopodiché, io ve ne do menzione, si vede una foto in cui ci sono una serie di ragazzi di fatto picchiati, anche se in maniera non troppo violenta, ma di fatto picchiati dalla polizia. Poi c'è, questo è Milano, da Torino, una foto di un ragazzo che non aveva più di 16 anni che perde sangue dalla fronte, quindi a meno che non dare una capocciata lui al poliziotto ha dato lui la testata al manganello, non è uno scontro. E poi a Palermo, dove il Corsera ci dice c'è stata grossa tensione, c'è uno scoop: fumogeni. I giovani palermitani hanno lanciato fumogeni all'interno di una banca. Direi lanciatori di fumogeni, un po' come i spingitori dei cavalieri. No. Tra l'altro ieri, soprattutto, ma non soltanto a Torino, un po' in tutte le città, era bello vedere la partecipazione soprattutto degli studenti medi, che sono quelli che hanno fatto un po' il grosso della manifestazione un po' in tutta quanta Italia, tanto che quelli più picchiati sono stati proprio gli studenti medi. Basti vedere immagini o fotografie che arrivano da questi fantomatici scontri che ci vengono raccontati da un po' tutti i quotidiani. Allora, mentre ci approntiamo per approntiamo per andare a parlare degli esteri, velocemente parliamo di un argomento che è passato, diciamo così, di moda, adesso va molto più di moda sui giornali, di parlare di economia. Chissà quando scatterà il prossimo allarme di immigrazione clandestina e sicurezza. Di certo però non per questo, non perché i riflettori sono si sono spenti per un po', non si continua a morire di immigrazione. 9 giorni senza soccorsi, alla deriva in Sardegna, assiderato un migrante, notizia piccola che troviamo dentro un box a pagina 26, dico 26, del Corriere della Sera. Si sono fermati in mezzo al mare perché era finita la benzina, dopo l'allarme lanciato domenica con 3 telefonate disperate ai carabinieri di Carbonia, partite dalla piccola imbarcazione di 6 metri in balia delle onde, motovedette, pattugliatori e elicotteri ne hanno cercato gli occupanti per 4 giorni. Li hanno trovati l'altra notte a 65 miglia dalle coste di Carloforte, nel sud-ovest della Sardegna, stretti a bordo di un barchino con il quale forse 9 giorni fa, ma le autorità algerine parlano di 5 giorni, avevano lasciato Annaba nel nord dell'Algeria. Uno di loro, un ragazzo dell'apparente età di 17-18 anni, non ce l'ha fatta e quindi è morto. Questa è la notizia che troviamo, pagina 26 del Corsera. Una non notizia, perché visto che non può essere usata come strumento, esatto, in questo momento di politica, in un modo o nell'altro, pro o contro, diventa automaticamente una non notizia, l'ennesimo morte nel mare a cavallo appunto tra le coste italiane e quelle del Nord Africa. E guarda, per farti capire per l'approccio, la notizia che sto per leggere farebbe ridere se non fosse che lo spazio che gli viene dedicato è molto più grande di quella che ho appena letto sul migrante morto in mare al largo della Sardegna, perché poi invece il Corsera, una pagina accanto, dedica molta più evidenza a notizia che effettivamente un po' ridere fa, però. Un giocatore di dama positivo all'antidoping, a test durante il campionato italiano. Però lo sai che mi ricorda, ti ricordi, era era un programma molto divertente che faceva una ventina d'anni fa, che era Sportacus. Ah, come? E c'era proprio, ti ricordi, il giocatore di dama o di scacchi, no? Che improvvisamente tipo che si sentiva male, con scritto no al doping. Senti, e però il giocatore di dama che è stato preso all'antidoping dice una cosa che però non mi sarei mai aspettato: è solo un errore, non ho fatto niente. Normalmente chi viene pizzicato all'antidoping, chi viene pizzicato in generale, è la prima cosa che dice, quella di non aver fatto nulla. Senti, andiamo agli esteri, perché mi sembra abbastanza scontato, sono le 8.53, noi siamo sempre un po' di corsa. Da pagina 8 del Manifesto, Michelangelo Cocco, che scrive: il bullo Barack Obama, in Australia annuncia l'invio di una task force permanente, c'è una sorta di scontro tra USA e Cina. Comunque Barack Obama dà, no, segno di mostrare, come si suol dire, gli attributi, no, molto macisti e molto americani, che ci parla dell'invio di 250 marine che nel giro di qualche anno diventeranno 2500 in quel tratto di mare, appunto, che servirebbe per la sicurezza militare tra Asia e Pacifico. Così, ha fatto un po' il bullo, ci sta molto l'articolo con il titolo Il bullo Barack Obama, almeno così viene letta dal Manifesto di oggi. E non so se dagli altri giornali. Ma guarda, il Corsera ne parla in maniera molto più descrittiva. Obama: il Pacifico è la nostra priorità. Questo è un, viene usato come titolo, la citazione testuale del discorso di Obama, manifesto del presidente per il secolo asiatico. Addirittura rabbia e sconcerto di Pechino, che evidentemente erano attesi dagli analisti americani che avranno scritto insieme a Obama il discorso. È chiaro che quella è tutta politica estera, sono tutti i moniti, il discorso in Australia, poi la visita a Bali, la partecipazione, la prima di un leader USA ai vertici del paese dell'ASEAN, la confederazione, chiamiamola così, appunto, dei paesi, di alcuni paesi asiatici. Non c'è poi molt'altro, insomma, perché la Corsera non si spende in analisi sulle dichiarazioni di Obama, si limita semplicemente a farne la cronaca. Invece a pagina 22 troviamo un reportage sulle elezioni politiche spagnole, a cui non è stata data tantissima attenzione, un po' perché si dà per scontato scontata la vittoria dei popolari dopo l'abdicazione, chiamiamola così, del governo Zapatero di un paio di mesi fa, Zapatero ha abdicato proprio in favore di elezioni. Viene fatto da parte del Corsera più che un'analisi, un'analisi di quello che sarà, più che altro un consuntivo a metà tra passato e futuro. Del passato si parla dei passi, di alcuni passi cruciali del governo Zapatero, tra questi quello che il Corsera chiama il fronte basco. L'ETA ha annunciato la fine della lotta armata ma non ha ancora consegnato le armi, successo a metà di Zapatero. E poi c'è un'altra cosa, registra il Corsera come nell'ultimo mese ci sia stato un incremento enorme in termini percentuali ma anche in termini strettamente numerici dei matrimoni omosessuali, anche perché si dà abbastanza per scontato che una delle prime cose che quello che sembra essere il sicuro vincitore delle prossime elezioni spagnole, vale a dire Mariano Rajoy del Partito Popolare, ha già detto che una delle prime cose che farà, pure per incassare, anzi per consolidare il consenso della Chiesa spagnola, ma della Chiesa in generale, sarà quello proprio di abolire la norma, la legge sui matrimoni gay. Vediamo velocemente, domenica le urne aperte in Spagna per le elezioni politiche che dovrebbero segnare la fine dell'era Zapatero. I sondaggi prevedono una sconfitta dei socialisti di Alfaro Pérez Rubalcaba al minimo storico con il 30% dei consensi. E poi vabbè, si dà menzione del passato dei due candidati, appunto abbiamo detto Rubalcaba per il Partito Socialista e Mariano Rajoy per quanto riguarda il Partito Popolare. Io dal Manifesto, pagina 9, assedio a Wall Street, decine di arresti, il movimento di protesta ieri contro la borsa di mattina e il metro di pomeriggio, la polizia ferma la marcia a partire da Zuccotti Park, 73 manifestanti arrestati, non si ferma l'iniziativa contro l'avidità dell'America Corporate, della finanza e delle multinazionali. C'è la cronaca descritta da Andrea Marinelli da New York, quasi una pagina intera a pagina 9 appunto del Manifesto, che sembra ben fatta. E poi sempre dalla stessa pagina ci arrivano la cronaca dal corteo della Praga indignata contro il velluto neoliberista, e poi Colonnelli o Troica, Atene resta bollente, corteo di migliaia di persone nell'anniversario del regime militare, ma la protesta adesso è contro i tagli. Argiris Panagolos ci descrive le decine di migliaia di ateniesi che hanno marciato dal Politecnico di Atene fino all'ambasciata americana per ricordare il massacro organizzato dalla giunta dei colonnelli arrivati con i carri armati all'università il 17 novembre del 73. 38 anni dopo la gente torna per protestare contro la nuova giunta della Troica e la partecipazione dell'estrema destra di Laos nel governo di unità nazionale insieme con i socialisti del PASOK, i conservatori di Nuova Democrazia e il sostegno dei moderati di Alleanza Democratica. Il 17 novembre la festa degli studenti, ma il ministro della pubblica istruzione ed ex commissaria europea, la socialista Anna Diamantopoulos, ha rotto la tradizione di rendere gli onori ai caduti perché non voleva essere scortata dalla polizia o dal servizio d'ordine del suo partito per portare un mazzo di fiori alla porta del Politecnico distrutta dai carri armati. Tu parlavi del movimento Occupy Wall Street, anzi ormai Zuccotti Park. Beh, la situazione sta peggiorando perché domani in mezzo a loro ci va Saviano. Gliel'ha proprio detto, gliel'ha scritto. Poraccino. Gliel'ha scritto ieri. Salve, sono Alberto Saviano. Sabato 19 novembre alle 12 sarò a Zuccotti Park insieme a molte persone. Lo scrittore invitare tutti in inglese alla manifestazione di sabato a New York, a due passi dalla sede della borsa americana. Sta un buca. E lo famo in un video che sarà postato oggi sul sito di Occupy Wall Street sotto il titolo della manifestazione Against the Mafia. Sono contento di essere stato invitato dagli organizzatori a parlare di come la crisi economica sia sfruttata dalle mafie. Spero di vedervi sabato per dimostrare che questa protesta non può essere zittita. See you soon. Vabbè. Tu lo sai che non si può criticare Saviano. No, è sbagliato. Dunque, portatevi, non lo so, non facciamo battute, mi veniva in mente portatevi qualche, ne so, il corno rosso, no? Com'è, qualche porta fortuna. Comunque Saviano partecipa a Occupy Wall Street, ma ormai sta fisso negli Stati Uniti, mi sembra di aver capito. No, no, non era polemica. Lui la cosa, si muove, vabbè. Non viene segnalato dai radar. sta là, non si capisce bene. Senti, invece il grosso scandalo ha destato questa fesseria della campagna pubblicitaria di Benetton, e quindi ha raggiunto assolutamente il suo scopo. Una serie di politici che si baciano, nulla di particolarmente originale, ok. Il Vaticano parla di azione legale per tutelare il Papa. Vabbè, io direi che la notizia vera è che c'è un prete che bacia un adulto, non un bambino, sai, quella foto là. Ma soprattutto chi tutela lui dal Papa, perché poi è questo. Senti, abbiamo fatto le 9, lo sai che dobbiamo interromperci, sì, e arrivare diretti. Hai una rassegna, bella sigaretta nuova, no, nuova. Invece io ti dico che sovverto. No, dai, ma andavate sentire. Ora ti spiego perché. Sono antipatico forte, ti spiego perché. Invece. Ma andavate sentire. Ho capito, mettila, ce l'hai dentro al corpo. Senti, l'ho dimenticato. Se tu mi facessi spiegare il perché, forse saresti d'accordo con me. Oh, che fatica, ma non lo so, che fatica, oggi sono faticosissimo. Il perché è che in questo weekend inizia oggi e domani iniziativa per festeggiare gli 8 anni dell'OA Agrobax, e non possiamo che non associarsi, lo vedi, ma corso riso, non possiamo che associarsi e mandare anche un abbraccio a tutte e tutti loro del cinodromo, l'ex cinodromo della capitale. Dunque usiamo i rancori, usiamo il suonatore Jones, magari, che dura 2 minuti e 20, visto che i rancori sono una band che attraversa il cinodromo, per così fargli il nostro buon compleanno, 8 anni. Sì, di cuore proprio. Non so pochi che fossero passati qualche anno, ormai è evidente anche ad Agrobax, visto che sono spuntati diversi ragazzini che danno un po' il termometro di quanto di un posto che sta diventando grande. Mettiamola così, usiamola in questa maniera. Siamo grandi, sì. Vortice di polvere, gli altri vedevano siccità. Dunque, buon compleanno all'OA Agrobax, sì. Ricordando le due iniziative, questa sera tra l'altro fanno la proiezione di Roma Città Aperta, la versione restaurata di un film straordinario, e poi domani sera il reggae, il Roma Muffin, stavo dicendo reggae circus, no, Roma Muffin, no, è un'altra cosa. Però in mezzo al Roma Muffin c'è anche uno l'inventore del reggae circus, va così. Pensa un po'. Quindi doppia giornata. Pensa quanto sei informato, non ti facevo così ferrato sul reggae, anzi. Mi ricordiamo. Ma io allora qualcuno mi dice sono 9, qualcuno mi dice sono 9 anni invece di 8. 2003 8 1, no, mi sembra che sono 8. Guarda, comunque. Io questo 2002, non lo so, però 2002, famo che sono 8, perché a me già sentire che erano 8 anni di Agrobax mi ha fatto sentire vecchio, se mi dici pure 9. Io rischio di sbagliarmi, dunque. No, noi ormai siamo abbastanza confusi. come tutti i venerdì mattina, confusione che prosegue proprio il resto della settimana. Sì, voglio, dunque, stateci, magari ci siamo sbagliati 8, 9. Senti, qual dobbiamo accelerare, sì, che io ho una serie di visite mediche oggi e non mi aspettano, poi mi tocca riprenotare, bla bla bla bla. Però andiamo a fare la cronaca di Roma tirando il sospiro di sollievo, perché Gnagni è diventato anche detective. Dopo 3 anni qui, guarda, no, spero... La notizia è che ha fatto pace con Repubblica. Ah sì? Gli parla? Sì. No, che poi tra l'altro adesso, ma questo va detto, perché il nostro sindaco Gianni Alemanno è sorprendente, perché ormai comunica tipo Al Qaeda, ci ha fatto caso. Sì, sì, cioè, sì. Questi videomessaggi che probabilmente gira anche lui in qualche grotta, forse a Caracalla, se ne va a Caracalla, si fa riprendere, non ha la barba, però il tono è quello. Si mette lì davanti alla telecamera e si fa... e fa le sue dichiarazioni. Sì, dichiarazioni che poi lasciano, non è che lasciano il tempo che trovano, fanno proprio pensare all'idiozia, al comando. Mafia sui cartelloni abusivi, Alemanno, subito un'inchiesta dei vigili urbani. Beh, a proposito di mafia, niente male. E ha detto spezzeremo, romperemo le mani. No, ma non l'ha detto, non l'ha detto lui, l'ha detto il terzo vice comandante dei vigili urbani, che entrerà a far parte di questa task force. Aspetta, che però, a proposito di comune, c'è l'autobus dell'AMA che passa qua sotto, solo per far confusione. Manco sì, non sta sguardando i cassonetti. Ma sì, perché è un po' la caratteristica dei camion dell'AMA. Ma in giro, certo, fa rumore, soprattutto fai rumore, perché esatto, se tu fai rumore la gente si affaccia e dice: ah, vedi l'AMA, automaticamente assume il fatto che sia l'opulenza. È la versione romana dell'ammuina napoletana, no? Quello di muoversi veloci facendo finta di fare qualcosa che non si fa. Comunque, dicevo, per la vera notizia è che Alemanno dopo 3 anni si è accorto che c'è qualcosa che non va sulle affissioni, e comunque per contrastarli ci manda niente un po' di meno che il terzo vicecomandante, anzi insieme ad altri due che già fanno parte della task force, ci andrà anche Antonio Di Maggio, che i più e le più all'ascolto conosceranno perché è colui che negli ultimi 3 anni, in continuità splendida con quanto faceva sotto Veltroni, ha governato e ancora lo fa il piano Roma, per capirci. Di Maggio è quello che 1 anno e mezzo fa sparò a un ragazzo in motorino, senza prenderlo per fortuna, che non aveva rispettato lo stop, e lui sparò in aria, e Di Maggio, appena insediato in questa task force, ha detto: romperemo le mani a chi fa questi giochetti. Veramente complimenti. Così ci fa ridere un po', come spezzeremo le reni alla Britannia. Esatto. Allora, vabbè, in fondo la cultura è quella, perché discostarci troppo sempre dal, eccolo qui, anche Repubblica, la mafia dietro cartellopoli, ormai Alemanno parla o di bande o di mafia, qualsiasi cosa la rapporta a questo. Comunque dopo 3 anni non è male il fatto che se lo sia ricordato, ma poi un po' nello stile di Gianni Alemanno tuonare per non fare nulla, fondamentalmente un po' come gli abusi edilizi, l'abusivismo a Roma. Ricordiamo poi che al di là della mafia non mafia dietro ai cartelloni abusivi, io suggerirei a Alemanno di se proprio vuole andare a fare la guerra alla mafia, cioè non è che devi andare per forza dietro le affissioni a Roma, insomma, no, c'hai anche altri indotti. In ogni caso, viene ricordato dal Messaggero, anche se con evidenza minore rispetto a quella data ai comunicati di Bim Alemanno, e viene ricordato che nel 2009, quindi con Alemanno in carica, per far cassa il Comune di Roma promulgò una sanatoria per le affissioni, per cui a costo quasi zero si poteva sanare la propria posizione, sia per quanto riguardava le multe, sia per quanto riguardava l'occupazione degli spazi pubblici dove affiggere. Tra l'altro, Alemanno, questa forse è la dichiarazione più bella, ieri si è anche lanciato un grido di dolore a proposito del decoro urbano. È stato lanciato un bando per 200 volontari per il decoro dei, ti ricordi che 2 anni fa se ne uscirono dicendo che sarebbero stati, l'anno scorso anzi, sarebbero stati multati tutti coloro buttavano le cartacce, attaccavano gli adesivi e così via. Alemanno dice: nessuno ci aiuta. Alemanno, era una dritta, sei il sindaco, ti devi aiutare da solo. Ti devi aiutare? Devi essere tu ad aiutare gli altri, casomai. Tra l'altro, oggi, visto che hanno siglato la pace, Repubblica, e o quantomeno la tregua, Repubblica e Alemanno, oggi c'è una lettera di Gianni Alemanno sull'emergenza rifiuti, perché Roma non farà la fine di Napoli. E nella inizia così: con caro direttore, lui pensava stronzo, credo di sia giusto poter esprimere il nostro punto di vista. Io ve la traduco un po' così, Anfavi, fatemi parlare. Ecco, continua così: l'obiettivo di chiudere dopo 37 anni la discarica di Malagrotta, prima che questa giunga a una situazione di totale ingestibilità ambientale e funzionale, può essere perseguito se ognuno dei soggetti coinvolti si dimostra il massimo senso di responsabilità. E lì pensava, e comunque pure voi di Repubblica siete una bella monnezza. Sì, infatti. Comunque, se siete interessati, nel frattempo prosegue le manifestazioni di quanto riguarda il popolo di rifiuti zero. Andremo a parlare anche di questo, visto che ci parla. Ma andiamo, prima di tornare sui rifiuti, a dare una scorsa ai giornali per quanto riguarda ieri la sfida degli studenti. Monti ci ascolta, scrive Repubblica. Liceali e universitari arrivano vicino al serato, cori e lancio di uova, sono i primi a sfilare dopo i divieti. È la prova che non succede niente, perché anche sui divieti si continua questo teatrino abbastanza ridicolo, no, di Roma sul suo Alemanno, che continua a minacciare il fatto del corteo soltanto il sabato e 5 circuiti, loro li chiama percorsi, mi viene in mente un po' il circuito automobilistico. Ovviamente, no, il sindaco ha firmato l'ennesima ordinanza corteo, da quando il sindaco in 3 anni ne avrà firmate 112 di queste ordinanze. La sua idea più che altro è l'idea è quella del circuito dei muli, tipo tipo ratturi di montagna. Senti, invece continua la battaglia, la lotta partigiana del PD romano, soprattutto del primo municipio, che fa la voce grossa, fa la voce grossa e imbruttisce, perché rivuole la fermata del bus di fronte a via del Plebiscito di fronte a Palazzo Grazioli. Che questa è stata l'unica cosa quasi decente che ha detto Bersani dopo le dimissioni di Berlusconi, perché la prima cosa che ha detto, vabbè, proprio non si commenta, non so chi ha visto, se tu hai visto il video. Ma lui ha trattato l'appoggio al governo Monti con la fermata a Palazzo Grazioli. Certo. È stata la trattativa, voi ci rimettete quella fermata e noi non faremo opposizione. Poi a Bersani gli serve, perché lui quando staremo va sempre con l'autobus. Assolutamente. Anzi, c'è quasi un conflitto. Anche potremmo parlare addirittura di voto di scambio. Senti, posso dirti una cosa? Molto strano, perché il Messaggero non parla del provvedimento che Alemanno ha dovuto prendere per forza, ma contestualmente in maniera anche timida, il primo di questo tenore da quando lui è in carica, vale a dire quello di bloccare il traffico integralmente domenica prossima per abbassare i livelli di smog. Due considerazioni: la prima, forse è un provvedimento anche tardivo; secondo, sicuramente un po' se ne vergogna, perché l'ufficio stampa del Campidoglio, che è prodigo di strali e comunicati, sembra aver dato veramente molto poco, dato che il Messaggero, che da questo punto di vista è un, per quanto riguarda la cronaca di Roma, è un giornale anche di servizio pubblico, tra virgolette, nel senso che informazioni di questo tipo di età, non dice praticamente nulla. Possibile che domani troveremo qualcosa, però insomma fanno parecchio vaghi. Io ci rosico, perché domenica dovevo andare da una parte, invece niente. Allora, puoi prendere pur sempre gli efficientissimi mezzi pubblici. Sicuro. Guarda, ieri mi raccontavano, ho incontrato un ragazzo che conosci anche te, viene chiamato il prete, che mi raccontava la sua non indifferente avventura. Ieri c'era sciopero degli autobus, lui ha staccato la notte che ha fatto, stava in bicicletta, perché voglio dire, parastella, vuoi andare al lavoro in bicicletta, ci mancherebbe. Ha provato a prendere la metro e verso le 5 del pomeriggio gli hanno detto: no, la devi prendere dopo le 9. Lui gli ha detto: sì, bello mio, ma alle 9 c'è sciopero. Fama la prende molto, tra l'altro alle 9 la metro manco c'è più, perché ci sta l'autobus, e niente, quindi se ne è tornato alla stazione Termini a Casal dei Pazzi in bicicletta. Se è tornato poi, vabbè, ma che ci vuole? Tutti butti sulla Nomentana o sulla Tiburtina, tu e vai. Butti sulla Nomentana, aspetti che il 60 ti prende, che ti spinge proprio, e poi arrivato a Piazza Monte Gennaro, dove scendi? Cioè scendi, Senti, ricordiamo, visto che non se ne parla, perché tutti poi ne parlano, ma poi non si parla delle iniziative proprio contro il piano rifiuti della premiata coppia, che poi manco va d'accordo su questo, le manno a Borvelini, perché poi è un po' questo. Secondo me non si capiscono. Poi. Domani appunto c'è la pomeriggio detto. Ma che sa di un casetto, Anano! E questa è un po' l'interazione tra la Polverini e il sindaco Gianni Alemanno, che però ricordiamo che domani i cittadini del coordinamento rifiuti zero per il Lazio hanno lanciato questo appuntamento sabato 19 novembre alle 14.30 in piazza della Bocca della Verità per dire no agli inceneritori e alle discariche e ribadire la necessità della raccolta differenziata in contrasto con gli interessi appunto delle quartiere di imprenditori che guadagnano bruciando rifiuti e ricevono ingenti finanziamenti pubblici. Queste cordate di imprenditori poi soprattutto nella regione Lazio, più che la cordata, è un imprenditore, il signor Cerroni, il boss della Monnezza, un po' Tony Sopranos della situazione. Sì. Questa è Roma, questo è il Lazio, amministrato da questi personaggi, a cui aggiungiamo anche quello che il papabile futuro sindaco di questa città, Zingaretti, che è al cantuccio della provincia, però non è che. Zitto, zitto! Zitto, zitto! Acqua cheta, maledetta! Nel frattempo dobbiamo andare a salutare una stalker via computer, la nostra amica Brunella, che vuole essere salutata con la voce di Alemanno. Lei continua a fare la stalker, a mandare messaggi della serie vedevo pagare un corso d'inglese, queste cose così. A no, Brunella, stai molto in campana quando parli di noi. Ma soprattutto portaci un caffè. Ecco, invece di sta lì. No, sta al lavoro. Ah, ci abbiamo pure i soloni. Abbiamo anche il sì. Ci ascolta, no, ma come parlano in inglese? Beh, giusto però. Sì, ma comunque più che soloni, stalker, direi. Ci vuoi pagare il corso d'inglese? Fatto. Dici, tu dacci i soldi. Non lo voglio fare. No, vabbè, intanto però ci facciamo pagare il corso. No, so tanto bene nel mio 9:17, tutto chiuso. Mondo di ignoranza. Come direbbe il sindaco, ora ad andare che dai che io mi devo andare a far fare. No, io devo segnalare invece le cose, su. Devo segnalare invece due iniziative. No, sta buono. Ritmo, perché guarda che è questa la radio, mica. Ma io già stavone, eh? Ma che io già ho il fiatone, che ritmo. Vi ricordo allora due iniziative. La prima oggi pomeriggio, vado a ricordarvi nuovamente il compleanno dello Agrobax. Come se fossi stato minacciato dal ricordarmelo, non è così. Dunque invito anche a passare in questo weekend a una delle due iniziative. Però l'iniziativa di oggi che volevo ricordare alle ore 18, alle ore 19, in quel della Torre, la presentazione del libro Come, no? Come abbiamo vinto il referendum di Marco Bersani. Come abbiamo vinto il referendum e come rischiamo di perderlo, aggiungerei, però una buona discussione dalla battaglia per l'acqua pubblica alla democrazia dei beni comuni, un'interessante discussione anche su quello che poi sarà il futuro del percorso dell'acqua pubblica, anche in virtù del fatto che sabato prossimo c'è la manifestazione nazionale e poi la due giorni oggi e domani in quel dell'O Agrobax. Come dicevo, oggi la proiezione di Roma Città Aperta versione restaurata dall'Istituto Luce, a cui parteciperanno Renzo Rossellini, Elena Catozzi e Bianca Bracci d'Orsi dell'Ampi, e domani sera appunto la quarta edizione del Roma Muffin organizzata dal Baracca Sound System e Good Mood Culture, visto che poi ci dicono che non sappiamo l'inglese. Senti, invece piccolo intervento privato a cui penso tutti unirai, visto che è un momento di auguri, facciamo pure gli auguri alle due barbare per quanto riguarda il posto dove noi spesso andiamo, che festeggiano. Dove spesso andiamo a molestare. Sì, a proposito. Molestiamo il posto, ovviamente. Andiamo, sì, sovente, forse pure troppo, dal loro punto di vista, che domenica prossima compiono qualche anno, non so quanti. 8, non so, 8, 9, quanti non noi? Non 10. Sono 8, però no, non sono 8, saranno un 3, un 3, 4, 4 comunque, forse pure 4. Facciamo loro grossi auguri e diciamo, ma una spina mai, Mandiamo questo messaggio, è vero, ma la spina mai. Noi vi lasciamo alla programmazione solita del venerdì mattina, che oggi però verrà in qualche modo cambiata e trasformata, appunto questo filo diretto dalle ore 11:30, proprio per parlare e andare un po' a raccontare il neo governo Monti, che sono anche i personaggi che si agitano dietro il governo Monti, perché la situazione è anche abbastanza particolare, visto che è un governo che ha il sostegno di tutti, dalla stampa alla politica, anche all'antipolitica, mi verrebbe da dire. Dunque, dalle 11:30 per intervenire il numero di telefono è sempre lo stesso, 06 49 17 50. Senti, prima di andare a chiudere velocissimamente, ottemperiamo una delle formalità, però che facciamo con piacere, ci mancherebbe, del venerdì mattina, vale a dire le previsioni del meteo. Dicendo che freddo c'è, ma è normale. Io sento gente che si sta già a lamentare. Ragazzi, è autunno, quasi inverno. Sì, è normale. Ma poi a me, guarda, quando c'è sta questo freddo mattutino, però col sole che a pranzo è bello, perché poi rivaluti anche il sole che poi guarda, l'altro giorno, in un raro momento di poesia mio e tuo, non so come mai, dicevamo una cosa su cui, una delle poche cose su cui siamo d'accordo, che tra l'altro il cielo di questi giorni è proprio bello, soprattutto appunto quando c'è sto sole misto al freddo che durerà fino a domenica, lunedì, e poi ci dice Repubblica arriverà un po' di pioggia, però poca, perché non c'è più il governo ladro, sia sì. Chiaro, Repubblica sottolinea questa cosa. E poi altra formalità, ma questa più che una formalità è proprio un dovere, del venerdì ci siamo dimenticati di salutare il pilota che l'hai sentito? Che basta, no, non l'ho sentito, ma ce l'ho sempre in mente come disgrazie praticamente. Ma il pilota sarà a lavorare, sarà pilotando in questo momento, dunque lasciamolo perdere. Vi lasciamo, sono le 9:22, è tardissimo. Sì. Noi ci licenziano. Poi... No, beh, a me oggi non mi fanno entrare dentro i vari posti medici. Dunque, vi lasciamo con Wax Taylor e la sua The Man with No Soul. Dobbiamo parlare inglese, altrimenti la Stalker poi ci insulta. Buon proseguio attraverso gli 87.9 di Radio Onda Rossa. Spendi quel citofono / cellulare. Dunque, rimanete in ascolto, ricordate, alle ore 11:30 se volete intervenire al filo diretto della radio. Buon fine settimana, soprattutto buona libertà e un abbraccio a tutta la popolazione detenuta. To face the coming of your day.